Questa idea è nata con alcuni amici, con cittadini di San Giorgio, in particolare Maria Chiara Mazzanti e Pier Domenico Memeo, che è lui stesso un astronomo divulgatore, perché insomma da alcuni anni nel corso della rassegna estiva ha cercato di proporre degli incontri con dei divulgatori, quindi con queste figure particolari che uniscono alla competenza nel loro settore di riferimento una competenza ulteriore, una capacità ulteriore che è quella di comunicare, di trasmettere le conoscenze con una modalità, un approccio che diciamo possa essere accessibile a tutti, ma non troppo elementare, che quindi consenta di interessarsi a una determinata materia, volerla poi approfondire e avere comunque un relatore, una trasmissione di conoscenze sufficientemente approfondita. Da qui, appunto, con questi amici è nata l'idea di mettere a sistema un po' questo metodo e di provare a organizzare qualcosa. Siamo partiti con l'idea di fare una cosa piccola, e infatti rimane sul fisso piccolo a questo festival della divulgazione, in realtà tanto piccolo poi si è già rivelato essere non tanto in questa prima edizione. Siamo partiti umili anche perché sinceramente pensavamo che con tutti i festival che ci sono in giro per l'Italia fosse magari un format già utilizzato, e invece in realtà abbiamo scoperto di essere sostanzialmente il primo, e quindi il nostro obiettivo è quello insomma di arrivare velocemente a togliere questo suffisso piccolo e a poter appunto mettere in campo, continuare a mettere in campo questo tipo di progetto anche negli anni successivi. E poi intanto vediamo come va quest'anno. Però diciamo lo stimolo è stato questo: vedere il ritorno che avevano questo tipo di eventi e anche un po' l'idea che ci sia bisogno di fare divulgazione e cultura proprio per evitare quell'approccio superficiale che paradossalmente nella nostra società dell'informazione, dove tutte le informazioni sono lì, tutte le conoscenze sono lì a portata di mano, spesso questo passaggio, arrivare alle fonti qualificate non è semplice. Quindi l'idea è quello di aiutare ad arrivare a qualche fonte, ma anche dare un metodo per poi continuare questa ricerca individualmente. Abbiamo appena vissuto 2 anni di pandemia dove anche il tema scientifico è stato centrale. Se la divulgazione fosse stata un po' più incentivata, magari avremmo avuto meno teorie cospirazioniste. Sì, più che la divulgazione, diciamo, il pensiero critico, il pensiero scientifico, che purtroppo sono sottovalutati. Insomma, se pensiamo che a scuola, in alcune classi, in alcuni livelli, insomma, studiano altrettante ore di religione quante quelle di scienze, questo ci spiega poi perché, insomma, cresciamo forse in una società nella quale non c'è tanto la consapevolezza dell'importanza di questo tipo di studi, questo approfondimento, del metodo critico poi fondamentalmente, quindi di mettere sempre in discussione le conoscenze, ma non metterle in discussione per una discussione fine a se stessa, e quindi semplicemente per cercare un complotto, per cercare qualcosa che stia dietro, ma perché comunque, come dire, ogni informazione che arriva deve essere vagliata, capire da che fonte arriva, capire quanto è diffusa, quali sono le altre posizioni sulla materia, capire anche se chi ci sta parlando ha le conoscenze al di là della sua magari notorietà, però anche le conoscenze specifiche di quel settore. E quindi divulgazione vuole anche dire far parlare persone che nel loro specifico campo sono competenti. Abbiamo sentito spesso dare la parola, ma lo vediamo adesso durante la guerra, ma lo vediamo anche abbiamo visto durante la pandemia, a persone che magari avevano competenze molto forti in un campo, ma venivano chiamate a parlare di altro e dicevano anche delle cesquipedali cagate, purtroppo, e questo l'abbiamo visto succedere molto spesso. E quindi la filosofia è questa: promuovere il pensiero critico, il pensiero scientifico, tanto che al di là di quello che di questo festival si vede, oltre quindi a queste conferenze, avremo però anche dei laboratori, ovviamente tutti gratuiti, come sono tutti gli eventi del festival, sia in biblioteca, ma anche nelle scuole. Quindi abbiamo promosso 10 laboratori scientifici nelle scuole, in questo caso di San Giorgio di Piano, proprio per dare uno strumento in più ai ragazzi e alle ragazze. Il festival è itinerante, si svolgerà in diversi comuni. Quali sono e alcuni degli ospiti che avrete? Allora, il festival nasce a parte da San Giorgio, insomma, da una nostra iniziativa, però poi, insomma, creato il progetto, presentato agli altri comuni, ha ricevuto, insomma, un bel gradimento, e quindi avremo molte, diciamo, iniziative a San Giorgio. Partiamo tra l'altro appunto il 14 con Guido Barbugiani, un genetista dell'Università di Ferrara, anche lui divulgatore, insomma abbastanza noto. Lui farà una conferenza su chi sono gli europei e quindi sull'evoluzione dell'Homo sapiens, dell'Homo forse l'uomo di Neanderthal in Europa, e quindi ci racconterà un po' le migrazioni al di là, diciamo, dell'attualità politica, ma a livello storico-scientifico. Finiremo sempre a San Giorgio con Roberto Mercadini, filosofo, divulgatore, con una conferenza dal titolo Little Boy, che tratta da uno dei suoi ultimi libri, ed è la storia del progetto e delle conseguenze poi della creazione della bomba atomica. Tantissimi altri appuntamenti nel mezzo, ma appunto ci muoveremo anche in altri comuni, partendo martedì 17 a Fono di Argelato con Coltelli, il curatore di Butac, Bufalo 80 al chilo, che ci parlerà di infodemia e di bufale. Poi torneremo a San Giorgio con Francesco Filippi, storico, che ci parlerà di storia, memorie e memorie, quindi con una riflessione appunto su come si fa la storia e sulla differenza tra la storia e la memoria. Ma poi andremo a San Pietro in Casale con Beatrice Mautino, che è una biologa, anche lei molto nota nell'ambito della divulgazione, a Castelmaggiore con Ruggero Rollini, e parleremo di sostenibilità. Avremo già domenica una visita guidata alla bellissima Pinacoteca di Pieve di Cento, con una lezione a cura di Renestini su Guercino. Andremo a Bentivoglio il sabato 21 con due fotografi naturalisti molto bravi, Tomasinelli e Colombo, che ci parleranno dei loro viaggi e ci faranno vedere una serie di immagini veramente molto suggestive, molto belle, ma ci racconteranno anche cosa vuol dire essere fotografi naturalisti, viaggiare e vedere paesaggi e animali fantastici. E per trovare il programma completo? Per trovare il programma completo, festivaldivulgazione.com, il sito, e la pagina Facebook, trovate veramente tutto, con il programma, gli appuntamenti, la possibilità di prenotarsi, prenotazione che non è obbligatoria, in alcuni casi forse consigliata. Ripeto, tutti gli eventi sono assolutamente gratuiti e aperti a tutti.